difficile l'accesso all'autostrada. Io dico che nonostante quello che ha detto Pisano ieri, che non ha visto le cariche, che io penso che tutti i servizi del TG che hanno aperto con questa notizia e che hanno fatto proprio un video amatoriale, che hanno testimoniato che cosa è successo ieri mattina a Belaus, sicuramente bene dal punto di vista mediatico all'esecutivo e al ministro non hanno fatto, al di là della supponenza delle parole che poi lui ha detto, ma e quindi probabilmente non avevano alcun interesse ad alimentare altri scontri oggi, ma questa è una riflessione mia personale, non pretendo assolutamente che possa avere un valore oltre quello di una riflessione. Per questo motivo non penso che oggi abbiano intenzione di fare alcunché, ormai il traffico è stato deviato su altre direttrici e quindi l'obiettivo di oggi è sicuramente stato raggiunto. C'è stata alcune prese di posizione degli imprenditori dell'Alta Valle che ritengono che questo blocco abbia arrecato un grave danno all'industria dello sci dell'Alta Val di Susa. Sembrerebbe che ci fosse anche una presa di posizione di qualche amministratore dell'Alta Valle, me lo diceva il TG3, io ho risposto poco fa al TG3 in questo modo, che anche a noi dispiace, però bisogna che questo non si trasformi in un contenzioso fra l'Alta e la Bassa Valle, fra, anche noi siamo contenti se i lavoratori che lavorano agli impianti in Alta Valle lavorano, ci mancherebbe altro, però devono anche comprendere che cosa è successo ieri mattina e quindi la reazione che c'è stata del tutto spontanea, numerosa da parte del territorio, è chiaro che dovrebbe indurre anche loro a protestare contro chi ha determinato questi blocchi, perché penso che ognuno di noi avesse sia ieri e oggi di meglio da fare, di altro da fare, che venire a bloccare l'autostrada, che non è che lo facciamo perché non sappiamo che cosa fare. Quindi in questo modo comunque ci auguriamo che la polemica sia finita lì. Quindi non lo so, non ho l'impressione che le forze dell'ordine abbiano interesse a replicare quello che è successo ieri, ma vi ripeto, è soltanto una riflessione. Il banco di prova io penso che sia domani, anche su questo qualcuno mi chiedeva che cosa intendiamo fare domani, ecco, cosa intendiamo fare domani abbiamo detto sia ieri sera nell'assemblea che stamattina. Domani noi ci ritroviamo a Susa in Piazza d'Armi alle 10, si parte in corteo lungo la statale 25 e si cerca, vogliamo arrivare a Venaus passando a Bivio Passeggeri, quindi la statale 25. La reazione delle forze dell'ordine io penso che sarà commisurata al numero dei manifestanti. È chiaro che se siamo 1000 è un discorso, se siamo 10.000 è un altro, se siamo 30.000 è un altro discorso, quindi tutto questo lo valutiamo insieme domani. È chiaro che l'obiettivo è quello di arrivare a Venaus e perché c'è una ditta che ha messo a disposizione, la ditta Tinivella ha messo a disposizione un container, sarebbe nostro obiettivo, ne parlavamo stamattina, di avere una presenza di nuovo a Venaus per verificare quello che sta succedendo al sito di Venaus. Questo però, in che modo realizzarlo, se realizzarlo, lo vedremo tutti insieme, molto dipenderà da quanti saremo domani mattina, cercando di unire la determinazione con la serenità di questo movimento. Io aggiungo che ho preso pubblicamente, riprenderò ogni volta, come penso tutti voi, anche pubblicamente le distanze dagli episodi di stanotte che sono avvenuti a Torino, nel senso che noi ringraziamo tutti per le iniziative che si fanno nei diversi territori, però nei momenti in cui dovesse in qualche modo questo movimento essere accomunato a episodi di violenza, penso che troveremmo lo spazio di qualche giorno, quindi io ho già preso posizione ufficialmente contro, ho ringraziato chi ha fatto questo presidio a Torino, ma ho preso pubblicamente le distanze contro queste azioni di violenza che non hanno nessuna spiegazione e nessuna valenza con quello che noi facciamo sul territorio ormai da tantissimi anni e ovviamente in modo molto più corposo in queste settimane, in questi giorni. Quindi non possiamo assolutamente permetterci che si possano liberare i blocchi, si libera, lo si decide tutti insieme, senza, non c'è una scadenza, non c'è un orario, però appunto bisogna soltanto considerare anche il fatto che noi adesso, oggi abbiamo ripetuto il blocco di ieri, domani c'è la marcia e domani approfitteremo anche domani per fare un po' le valutazioni nel corso della giornata, avremo tempo a disposizione anche a seconda di come andrà la giornata di ieri. Quindi decidiamo quando è il momento oggi di chiudere questi blocchi. Poi venerdì e sabato, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo anche qui, noi non possiamo esporre nessuno a rischi, venerdì e sabato non ci sono i giornali. Di questo dobbiamo tenere conto nell'organizzazione di altre iniziative, quindi per venerdì e sabato ne avevamo proposta qualcuna stamattina, altre se ne possono proporre sia adesso sia anche domani mattina quando ci ritroveremo tutti insieme a Venaus, dipende anche se c'è sito di Venaus, se non c'è, quindi moltissime sono, e poi eventualmente rifare un'assemblea sabato, magari sabato pomeriggio, sabato prima di cena, per capire che cosa si fa dalla prossima settimana, sapendo che sabato c'è un convegno a Torino molto importante alla GAM, tutto il giorno, Galleria d'Arte Moderna, Corso Galleria Ferraris, angolo Corso Vittorio Emanuele, a partire dalle 9 del mattino andrà avanti fino a tardi pomeriggio e verrà presentato per la prima volta il libro, il video che ha prodotto dei professionisti con contributo della comunità montana, del gruppo dei Verdi e di un altro gruppo regionale, non mi ricordo se sono i comunisti italiani, ma c'è Oliviero che magari poi ce lo può dire. E quindi c'è questo convegno sabato e poi dobbiamo organizzare la manifestazione di sabato, che non sarà uno scherzo ma deve essere qualcosa di estremamente imponente. È chiaro che tra lunedì e sabato dobbiamo mettere in campo alcune iniziative, sicuramente un presidio venerdì 16 a Torino per informare i torinesi del perché il giorno dopo saremo in piazza, saremo a Torino a manifestare. Quindi queste erano un po' le riflessioni che si volevano fare. Ci ha raggiunto anche l'europarlamentare Giulietto Chiesa, che primo salutato, poi sarebbe importante che intervenisse. L'avevamo incontrata a Strasburgo 3 settimane fa, quando appunto martedì 3 settimane fa avevamo fatto un incontro, un'audizione, una conferenza stampa al Parlamento Europeo, e quindi un po' questo erano le... molti chiedono oggi quando dura, quando decidiamolo tutti assieme, l'obiettivo è stato raggiunto, quando si ritiene che non ci siano più necessità di restare a bloccare lo Stato, ma non per liberarle per la SITAP o per altro, ma quando legittimamente si riterrà di porre fine al blocco, lo si farà in pienissima autonomia da parte di ognuno di noi. Quindi un po' queste erano le riflessioni. Ci sono nel frattempo una serie di prese di posizione di alcune forze politiche, poi c'è Sandro Plana che voleva eventualmente, è stata importante anche la trasmissione di Ballarò ieri sera, alcune esponenti politici che fino adesso non avevamo mai sentito intervenire su questo argomento, dopo quello che è successo ieri mattina hanno avuto, secondo me, giustamente la volontà di intervenire in questo dibattito per dire che si può discutere Torino-Lione sì, Torino-Lione no, però non si può assolutamente mettere in discussione che un'operazione di polizia come quella di ieri mattina all'alba è un'operazione che ci riconduce in altri periodi oppure in altri contesti geografici che non sono quelli di un paese democratico con libere elezioni, con un Parlamento e altro. Poi Pisano può dire quello che vuole, ma con questo movimento si deve confrontare, e perché questo è un movimento non fatto di 4-5 sabotatori o 4-5 che agitatori che agitano le piazze, insomma, penso che più associativismo e più democrazia di quello che stiamo facendo, ogni decisione si viene condivisa da tutti, e quindi non penso proprio che possa essere fatta nessuna accusa di questo tipo, ma probabilmente il nervosismo, il fatto di dover giustificare spiegare un'operazione che poi gli è sfuggita di mano, però come dicevamo ieri e come ammessa anche sui giornali, sicuramente questa operazione è stata studiata a tavolino, è stata studiata a tavolino dal ministro dell'interno Pisano, sicuramente con l'appoggio del governo, del Presidente del Consiglio, perché operazioni di questo genere all'alba, di notte, aggredire un gruppo di manifestanti non può essere decisa da nessun prefetto, da nessun questore e da nessun vicequestore. Questo era chiaro già ieri mattina, vista la violenza proprio dell'attacco, e quindi era ovviamente tutto preordinato. Ecco, quindi per questo motivo, fossimo in un paese normale, responsabilità politica di questo genere dovrebbero essere portate subito a delle conseguenze immediate. Purtroppo il dibattito in Parlamento sull'azione di polizia si farà solo il 15, che è abbastanza lontano e sarà giovedì, però comunque vedremo anche giovedì quali saranno le argomentazioni che tirerà fuori Pisano, non potendo, penso, spero, ripetere di nuovo che non ha visto la carica della polizia. Ieri sera, per chi ha visto primo piano, addirittura il portavoce di Alleanza Nazionale Ronchi, oltre a ripetere che c'è questo tavolo di monitoraggio, lunardi, c'è un tavolo di concertazione da un anno, chiama i sindaci e non ci va. Vabbè, io voglio dire, posso pensare tutto quello che voglio sul governo, sul ministro Lunardi, ma se mi chiamano incontro sono sempre andato. Quindi non c'è stato mai nessun tavolo di concertazione, mai nessun incontro. La cosa che mi ha particolarmente indignato di Ronchi, che poi ci hanno detto che ci facevano replicare, poi la conduttrice Chiara gliel'ha chiesto e invece non ci hanno ripassato la linea, e quando ha detto della sua solidarietà a Poliziotto, per carità, avrebbe almeno dovuto dire solidarietà a Poliziotto e gli altri contusi fra i cittadini, ecco. Quindi queste veramente sono mancanza di cultura democratica, mancanza anche di stile, e se si esprime solidarietà per il poliziotto, quantomeno si deve esprimere la stessa solidarietà anche ai cittadini che sono stati aggrediti da poliziotti.